del lago al nord. La primavera è fiorita per noi, per dare un senso a questa umanità. Il Dio vivente un giorno si incarnò. Nessuno mai ha visto il Signore, ma se tu ami egli potrà, il mondo guarderà, e allora scoprirà il volto di Cristo dentro te. Nato su noi, per dare un volto a questa umanità, prese lui stesso il volto dell'amore. Polverose al sud, per dare un senso a questa umanità.